Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, ennesima puntata, bella puntata, con quattro ragazzi che vengono da Firenze. Buonasera ai The Dickers. Ciao. Buonasera a tutti. Avete fatto buon viaggio? Sì. Sì, ma è importante questo. Non eravamo molto lontani, non veniamo da Firenze. Vabbè, partite da Firenze, poi vi siete passati per Brescia, Brescia e siete arrivati qua. Una cosa molto importante, dobbiamo dirla, oggi, proprio oggi, 19 maggio, è uscito il nuovo EP vostro, si chiama Sofa Sessions. È tutto, sono 5 pezzi acustici. È una cosa, un grande onore per noi presentare una cosa in anteprima assoluta. Com'è l'idea di fare questo EP? Com'è nata? Come si è sviluppata? Beh, semplicemente per il fatto che diciamo nel nostro repertorio ci sono anche molti pezzi che hanno atmosfere acustiche, quindi un po' più soft, che spesso non trovano spazio nei concerti elettrici e quindi anche nelle registrazioni, a volte non nelle registrazioni, diciamo, ufficiali, quelle stampate sul disco. E quindi abbiamo deciso di dare un po' di spazio a queste canzoni registrandole in un garage, prendendoci tutto il proprio tempo, underground al 100%. Sì, assolutamente. Sul divano. Sul divano, come suggerisce il titolo, prendendoci tutto il tempo e tutta la calma che volevamo. Poi siamo andati a mixare a ultimare il tutto in uno studio a Brescia e abbiamo sempre concepito questa cosa come scaricabile gratuitamente su internet. Non, per ora almeno non verrà stampata. Perfetto. Visto che non c'è solo la chitarra, ma ci sono anche le fisarmoniche, l'armonica a bocca e il cembalo. Ci presentiamo come strumentisti, vai. Allora, io sono Andrea, suono la chitarra e la voce. La voce. Io, Francesco, suono la chitarra e anch'io la voce. La vocalist, anche te. Federico, basso e cori. Marco, batteria e cori. Benissimo, questi sono i quattro ragazzi toscani. Il disco vostro si chiama Keep Clear, quello ufficiale, quello non EP, no? Quello stampato precedentemente. È un bel disco, cioè ci sono dei momenti dylaniani, momenti rollistoniani, momenti beatlesiani, ma ci siete voi, quello è fondamentale. Ci siete voi, tutti gli addentellati, tutti i punti di riferimento vengono fuori, si sviluppano d'accordo, però e voi, parte tutto da voi. Poi ecco, il resto dei punti di riferimento sono logici. Chi non può citare i Beatles, chi non può citare i Rolling Stones, non c'è problema. Questo è un grandissimo complimento, cioè che l'ispirazione alla fine parta da noi, cioè è una cosa che ci fa molto piacere, che si senta nel disco, perché alla fine sì, appunto, le radici nostre sono quelle, chiaramente, perlomeno per quel disco in quel periodo, però insomma è il nostro punto di vista, diciamo. Dove è partita l'idea di fare un gruppo a quattro? con qualche addentellato un po' inglesi in alcuni versanti, un po' americano in altri, ma assolutamente toscano al 100%. Ma per le band è un po' il numero perfetto, perché sì, esatto, in tre manca qualcosa, in cinque a volte siamo troppi. È vero. Quattro è il numero perfetto. Quattro per le band è il numero, perlomeno per iniziare, perfetto. Poi chiaramente anche ora sentiamo una mancanza a volte, specialmente live, di una tastiera. Sì, perché anche nel disco abbiamo registrato tastiere, anche nell'EP acustico le abbiamo suonate noi, però chiaramente dal vivo o suoni la chitarra, o suoni la tastiera, o suoni il basso, o suoni la tastiera, quindi però insomma la struttura delle canzoni, se è forte, se la melodia piace, si regge anche senza, anche in quattro per ora, quando ce lo potremo permettere. Quindi poi fondamentalmente chitarristico il discorso, si può dire così? All'inizio musicale, perché è quasi più diciamo conveniente, tra virgolette, naturalmente, trovarsi d'accordo a livello musicale che poter spaziare a livello musicale o di possibilità. All'inizio ti devi trovare bene, devi fare una base solida e poi con l'andare del tempo si vedrà, insomma. Ma l'accordo è stato difficile da trovarsi musicalmente parlando? Contratto. Quattro diverse teste che poi si uniscono per fare la band, praticamente. Ma no, ci conoscevamo già già da tempo, insomma. Sì, sì. Io e Francesco eravamo a scuola insieme, con Andrea ci conosciamo da un po', quindi Biagio l'abbiamo trovato per la strada. Lui Biagio è arrivato batterista. Dopo. Le cose nei gruppi si mettono male e difficili quando, dopo un po' che stai insieme, non all'inizio. Sì. Esatto. Questo penso sia una cosa, insomma, che suona un gruppo lo sa, ma chiunque faccia delle cose che divide anche con altre persone. Certo, certo. Insomma, all'inizio spesso certi problemi non vengono mai fuori. Sembra anche quasi tutto facile, ma è molto importante e difficile anche giusto che sia così. Convivere comunque tra quattro persone, e idee diverse, però insomma fondamentalmente ci troviamo bene. È un po' la doppia faccia della stessa medaglia, perché alla fine quattro personalità forti fanno un gruppo forte, ma fanno anche nascere problemi e discussioni su molte cose. Ma le discussioni e i problemi servono per crescere, cosa dite? Certo. No, sì, infatti, è fondamentale. Infatti Marco, le batterista, sta zitto perché non è d'accordo su niente. Fondamentalmente non parla mai perché non è d'accordo. Beh, lui agisce dal punto di vista ritmico, esatto. È fondamentale. Okay. Beh, sono 22, 20 e 28 secondi, quindi assolutamente in diretta, questa è Rock Wave. In regia il mitico Michele Toson, la redazione è formata da Roberto Baldi che cura le telecamere, da Alberto Prisco che è il nostro coordinatore e il direttore artistico, e abbiamo anche una redazione al femminile, sono tre ragazze che ci seguono sempre, sono la Silvia, la Nicoletta e la Patrizia, quindi anche loro fanno parte della redazione. E adesso cominciamo ad aprire la finestra, presentiamo il primo pezzo dall'album, dal disco, non dalle EP, ma dal disco che è uscito precedentemente. Avete scelto la traccia, vi ricordate che numero? Traccia numero 2, che è Here Again. La presentiamo dopo e la sentiamo prima, cosa dite? Ok. Ok, perfetto. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. It is light. I don't know why I'm walking down this road. Maybe just to lose my time, or maybe 'cause I feel. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Eccoci qua. Allora presentiamo questo pezzo che dà l'inizio, da là apre la finestra nella, per i Beakers. Vai. No, questo era Year Again, che appunto è il secondo brano del nostro album. E niente, ha avuto un parto abbastanza complesso. Sì, complesso. Come mai? Come tutti i pezzi alla fine, perché alla fine appunto quando uno ha un'idea e scrive la prima bozza di un pezzo e poi la propone ad altre persone, per lo stesso discorso di cui parlavamo prima, poi subisce tante modifiche e appunto prende strade inaspettate. Niente, era un pezzo che era molto, diciamo, acustico sul nascere, perché è scritto con una chitarra acustica e la voce, che si è trasformato lentamente in un pezzo un po' più beat. Veloce e beat. Beat, sì, esattamente, un pezzo beat. Queste svisate che facevi con la chitarra a te, l'idea dove è partita di queste svisate, che andavano bene, erano inserite giustamente nell'insieme del pezzo. Per quello mi ricordo che mancava, insomma, un riff importante nel pezzo, una qualche frase di chitarra che trainasse un po' l'introduzione e rendesse un po' più forte, anche melodico. Cercavo qualcosa di melodico alla chitarra, credo di averlo trovato a casa dopo le prime prove del pezzo fatte insieme, perché comunque dopo che il pezzo, diciamo, si inizia ad arrangiare, viene poi registrato più volte, quindi riascoltato, sì, registrazione in presa diretta in sala prove. E ricordo, credo di averlo fatto a casa mentre ascoltavo il pezzo. Bene, ottima cosa. E poi l'hai fatto così, e poi ci sono gli altri tre che hanno detto ok, va bene così. Sì, anche il batterista l'ha fatto subito. Sì, anche perché anche il batterista ha detto, per il batterista non parlo mai. Se il batterista non fa, l'ho detto. Mai. Per il batterista questo era un pezzo difficile. Era un pezzo difficile. Come mai era un pezzo difficile? Perché c'è lo shuffle. Lo shuffle è un po' complicato. È vero, sì. A forza di suonarlo. Sì, diciamo che è un, questo qui è un pezzo che comunque ci piace sempre, ci è sempre piaciuto fare anche dal vivo, e penso sia uno dei pezzi migliori dell'album, e credo che dipenda dal fatto che ci siano tanti ingredienti che ci piacciono in questa canzone, tante cose che ricordano una musica inglese. Sì, esattamente, musica inglese a cui siamo molto affezionati e legati. Si sentono, insomma, atmosfere anni 60 ma anche anni 90. Si sentono tanti Beatles, tanti Oasis. Qualcuno ha parlato anche dei Kinks, non so se si sentono i Kinks. Ray Davis è un grande, quindi insomma è uno dei pezzi, credo uno dei nostri pezzi preferiti. Sì. Non so, per Marco resta zitto. Marco parla, no, mai. A me fa schifo, no. Non lo volevo mettere neanche nell'album. Tra l'altro in questo pezzo è presente anche, tanto per parlare appunto di stare negli anni 60, la presenza di un organo degli anni 60, un Vox Super Continental nell'Esdi, che ha suonato al nostro amico Alessio Bagni, che salutiamo. Ciao Alessio. Che ciao, ha suonato il pianoforte, la tastiera in Keep Clear. E questo, insomma, questo organo dà un colore particolare. Tra l'altro abbiamo avuto anche l'onore, soprattutto Federico che l'ha usato direttamente, di usare per registrare il basso un amplificatore vintage. Ah, sì, un Ampeg degli anni 70, usato prima dai Procolarum. Dai Procolarum e dagli AC/DC. Poi dagli AC/DC. Si sente proprio l'odore di Guatice d'OP. No, ma è il basso di... Dimmi. Come si chiama il bassista? Di Giacomo Fiorenzo, non mi veniva, scusate, l'apsus, è il bassista di Molteni, che era un socio dello studio e mi ha messo a disposizione. Quindi, insomma, uno strumento di AC/DC. A proposito di AC/DC, stasera sono a Udine, quindi sono a Udine, esatto, coincidenza. Fanno 40.000 persone a Udine, unica data italiana. Hanno ritornato al successo, grande Great Stiz del film e tutte queste cose. Noi siamo stati ultimamente non proprio a Udine, insomma, un po' vicino Lignano Sabbiadoro, non è proprio Udine. Insomma. Beh, insomma, è una bella spiaggia. Salutiamo gli Oracles, sono un gruppo di Udine. E, insomma, un saluto. Con cui abbiamo diviso il palco lì a Lignano. È una bella sera. Salutiamo sempre tutti. Certamente. Allora, diretta rockway.intervista.org, ci sono le telecamere. Salutiamo anche il nostro fotografo che non è ufficiale, però stasera è lui, è Alberto, il nostro fotografo ufficiale Agostino non è presente, lo salutiamo anche Agostino. Ciao Agostino. Un saluto Agostino. Agostino. Andiamo avanti, allora, un altro pezzo dal disco e poi cominciamo a suonare. Cosa avete scelto, un'altra traccia? Bring the Sun. Benissimo. È uno dei due pezzi acustici, appunto, dell'album. Dell'album, ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. I like to be the perfect man for you, for all my friends I do my best, out of my mind, so many things everybody. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, benissimo. Mentre il disco andava in studio a microfono spento, c'erano un sacco di strumenti interessanti, qualche un basso effettato, e se no bisogna dirle, la gente deve sapere come, che difficoltà, che pathos c'è stato per fare sto pezzo. Oppure non si dicono e si lascia il mistero. Oh, sì, no. Ma meglio dirlo, no, è stata una bella registrazione, tra l'altro un pezzo che piace molto a tutti, di quelli diciamo più soft, e di cose particolari non, c'è la chitarra acustica di Molteni, tra le altre cose che salutiamo, grande, che ci ha prestato per le registrazioni acustiche, perché era una bella chitarra, e, e la, di particolare c'è uno strumento strano che è un harpsichord. Cioè, no, che strumento è? È un'arpa, che però questo è elettronica, ci sono anche diciamo analogiche, insomma acustiche, ecco. Acustiche. Questa invece era digitale, anni 80, premendo un, passando il dito su delle barrette di ferro, lo dico in maniera brutale perché no, è giusto che la gente capisca, e nell'altro, con l'altra mano tenendo fermo un tasto veniva fuori l'accordo, appunto tipo di un'arpa. Quindi è quel suono che si sente, non è un'arpa vera, ma è quello, un suono un po' particolare. Poi di altre cose particolari c'era un basso semiacustico in un amplificatore per chitarra, che a volte può sempre servire, certo, a trovare sonorità un po' diverse. E poi spazzole e rullante, spazzole e rullante e cembalo, insomma, niente di più. E il piano. Ah, il piano, già. Assolo di pianoforte. Di Andrea Mastropietro. Assolone, tra l'altro, virtuoso proprio. Bello, bello. Quindi è andato via senza problemi, praticamente. Sì, diciamo che è bello perché mantiene comunque quella dimensione dimensione anche live di quattro persone che suonano insieme, perché comunque è stato un pezzo che prima di essere registrato è stato provato nella sala dello studio dal vivo per insomma 5, 6, 7 volte, insomma, quindi è una registrazione che ha preso forma successivamente al fatto di suonarlo tutti insieme. E la dimensione live com'è allora, visto che abbiamo accennato la dimensione live? La dimensione elettrica live o acustica? È decisamente elettrica. Sì. Molto elettrica. Sì. Sì. Molto di più rispetto a qualche concerto del periodo Keep Clear dell'uscita dell'album. Decisamente, sì. E abbiamo preferito da un po' di tempo dare insomma una svolta più, un'impronta più elettrica, diciamo un po' più dura, anche se in realtà insomma stiamo sempre parlando di rock and roll, non stiamo parlando di hard rock, cose pesanti, semplicemente un approccio più rock, più potente, ecco. Allora, non è un contrasto il discorso dell'EP acustico che avete inciso? Siamo pieni di contrasti. Ah, siete bene. Sì, ci sono pieni di contrasti. No, infatti dicevo prima, insomma, ci sono tanti pezzi che vale, siccome non crediamo di non saper fare solamente pezzi elettrici singoli di 3-4 minuti, sappiamo fare anche delle canzoni che hanno un'atmosfera più intima, e quindi perché non registrarle. Certo. E il nostro batterista, che è arrivato per ultimo, che dimensione ha nei pezzi live? Fa abbastanza casino, diciamo. In generale è questo, poi dipende. Cioè, ma ti lasciano la libertà di andare oltre a determinate cioè più che altro a volte non lo richiedono proprio i pezzi. Ah. Magari far troppo appunto casino danneggia. C'è anche un altro sinonimo di vabbè, confusione, va bene, si capisce. Esattamente. Si può dire. Sì, si può dire. È rumore, ecco, va bene. Rumore. Un po' di rumore. Esatto. Ok, 22:36, quasi 37, adesso è giusto il momento per iniziare a suonare. Quale pezzo per cominciare? Allora, facciamo il pezzo che apre l'EP acustico, si chiama You Talk Too Much ed è appunto la prima traccia, lo esibiamo qui in versione acustica. Assolutamente in anteprima, quindi esatto. In anteprima. Mondiale. Alle 22:37. Glasses, please remember the shades on your back. I can see all the faces one by one inside my head, and you know you are so independent. 25 years and nothing, oh dear. And my lack of ambitions makes me sad when I see you walking. You talk too much, you knock me up. Why don't you stop? Why don't you stop? You drag me down, I hear that sound. I'm counting down the days. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bello, è un'altra prima assoluta, è la prima volta che sento questo pezzo, è molto, sì, proprio bello, siete ispirati, si sente che c'è un pathos, che c'è una continuità, che c'è un collegamento, anche col batterista, che, sì, anche, sì, sì, anche sì, col batterista. Non so se c'è l'armonica un po' scordata. No, forse, assolutamente. È un po' bozzata. È piccolina. Un po' rovinata. Sì. Un po' rovinata. Sì. Però ha fatto tante battaglie, vuol, esatto, dire, o no? O sbaglio. Sì, è degli anni 60. Bello, mm, bello. Era di uno zio. Tutta vintage allora, praticamente. Bello, un pezzo, una ballad, non posso neanche chiamarla una ballad, è un pezzo vostro, basta, che ha qualche attinenza, forse piccole attinenze americane, ma non c'è niente di altro, sì, è pezzo vostro, e basta. La registrazione da voi, è un po' diversa, un po' prodotta in maniera un po' diversa, quasi latineggiante per certe cose. Ah, c'è un po' un ritmo un po' più mosso, più ricca, sì, sì, sì, sì, più ricca, naturalmente. Ci sono percussioni africane. E lui allora, tutto, sì, lui. Sì, è lui. Bravo, beh, lui è bravo, non parla mai, ma è bravo lo, no, stesso. Molto bravo. È molto bravo. ma no, lo faremo parlare più tardi, perché adesso vi dico, io lo posso anche dire, c'è un giochetto verso le 23. Ma semplice, un giochetto, però faremo parlare anche il batterista. Molto semplice. Una cosa che ho letto, che giustamente mi faceva notare Alberto, voi avete fatto una memorabile esibizione in Inghilterra al prestigioso Cavern Club di Liverpool. Il Cavern Club di Liverpool, quello famoso, beatlesiano. Vai, dovete parlare di queste, sì, cose. No, è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo avuto la fortuna di essere invitati da David Bash, un giornalista americano che organizza tutti gli anni un festival di pop internazionale a Liverpool. E abbiamo avuto la fortuna appunto di piacergli. Lui ci ha ascoltato su MySpace. Ha sentito i pezzi? Esatto, ha sentito i pezzi. Ancora non avevamo neanche un'etichetta, cioè è stata proprio una cosa così caduta dal cielo. Ha sentito i pezzi, ci ha scritto un'email alla quale noi all'inizio non credevamo, perché era un invito ufficiale a suonare al Cavern Club. E dopo qualche verifica, appunto, abbiamo controllato che fosse tutto vero. Siamo partiti armi e bagagli, come si dice. Niente, siamo volati a Liverpool per quella data e per altre due che siamo riusciti ad organizzare parallelamente. Com'è stato l'ambiente, l'atmosfera che si respirava qui? Nelle giornate siete stati a Liverpool? È stata un'atmosfera bellissima. Poi salire su quel palco per noi è stato il chiudersi di un cerchio, insomma, tra appunto tra l'essere appassionati di musica e diventare musicisti, una specie di cortocircuito mentale strano, ritrovarsi su quel palco visto migliaia di volte in filmati, certo, concerti di ogni gruppo, perché ci sono passati davvero quasi tutti. E c'è una cosa un pochino più romantica rispetto a trovarsi su un palco davanti a 1000, 2000, 3000 persone. Lì naturalmente c'è un'emozione, è quello a cui uno deve aspirare naturalmente, essere davanti a più persone possibile. Qui c'è un fatto un po' più romantico, intimo di ognuno di noi, quindi si parla sempre di questo, perché è comunque un locale piccolo che fa, cioè, che è un grande nome, più del mito che è un grande, esatto, nome, però quello discorso. Ma l'atmosfera in Inghilterra in generale, perché poi comunque la conosciamo, siamo tornati, una nostra amica vive là, no? È completamente diversa rispetto all'approccio musicale, rispetto all'approccio sia dei musicisti alla musica, sia del pubblico, soprattutto del pubblico alla musica e ai musicisti, rispetto a noi qui in Italia. Che approccio ci sei? Cioè, un approccio in cui in realtà non è il prendersi sul serio, ma è dare una giusta dignità a un'attività che è come qualsiasi altra attività. Cioè, scelgo di lavorare in questo settore, se valgo, vado e avanti. Piaccio, vado avanti. A volte posso andare avanti anche se non valgo, ma se piaccio al pubblico, questa è la dura legge, certo, anche giusta da un certo punto di vista. E però c'è un po' di rispetto in più che qui molte volte si perde, ecco. Ma non è che si perde per la strada, si perde nei locali adibiti proprio a musica. Cioè, noi abbiamo fatto quasi 40 date negli ultimi 6 mesi. e non sempre sono state situazioni, ecco, un po' da difficile da ricordare. E poi quasi, cioè, ovviamente nei paesi tipo Inghilterra, Stati Uniti, c'è un altro modo di pensare, di vivere la musica, un altro modo di ragionare. Il musicista, se è bravo, se è valido, perché no? Può suonare con chiunque. Invece qua in Italia, se, ognuno, non so se è giusta l'espressione, coltiva il suo orto. Ecco, è vero, sì. A noi camminando per Liverpool con la chitarra in mano è successo di essere fermati da cittadini di Liverpool. Da persone locali entusiaste che ci chiedevano cosa si faceva, da dove venivamo, cosa eravamo a fare lì, dove avremmo suonato, foto, ricordo, cose, insomma. Sì, sì, no, è vero, magari è un posto anche un po' particolare rispetto a Londra, nessuno ti fermerebbe, logicamente, una metropoli, però a Liverpool, insomma, ti trovi molto a tuo agio con le persone, è un po' come da noi quando arrivi nei paesi più accoglienti, ci sono città più accoglienti, certo, e più fredde, naturalmente, quindi certo, quando vai nella città più accogliente e ti dici, ah, sono stato proprio bene, anche se non c'eri mai stato fino al giorno prima. Certo. Londra è un po' diversa, sei una goccia in mezzo al mare, ecco. E quanto avete suonato a Liverpool? Qualche set, quanto durava? 50 minuti. 50 minuti, però. Tutti, l'ultimo un'ora, comunque non più di un'ora mai. E quanti gruppi, oltre al vostro? Al Cavern ininterrottamente. Ah, ho capito. Nell'altro festival, che era un festival fuori dal Liverpool, anche lì molto, molto carino, soprattutto a livello di pubblico, e, c'erano quattro, iniziavano più tardi, quindi non dalla mattina alla sera, iniziavano dalle 7 fino alle 11. Okay. Iniziano molto presto anche a bere, diciamo. Quello, già erano ben, cioè, fisicamente erano a posto, cioè, già avevo molto feeling, sì, anche alcolico. Sul palco principale di quel festival a Crosby, il paese vicino a Liverpool dove abbiamo suonato, c'era a suonare John Power, il bassista dei Laz, sì, un gruppo storico, certo, di Liverpool, che ha, insomma, lanciato il Britpop nei primi anni 90, cioè a fine anni 80, primi 90. Sì, super giù, fine anni 80. Ok, benissimo, 22:46, perdon. Cosa c'è in scaletta? Un altro pezzo da disco, mi pare. Sì, credo che sia The Only One. Sì, The Only che One. È il singolo vostro dall'album con videoclip, ne parliamo dopo. Parliamo dopo, adesso lo sentiamo assieme. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, era proprio un singolo. Proprio un singolo nel senso che fa muovere la gente, gli fa... È giusto che sia così. Ma esistono ancora i singoli secondo te? O secondo voi? Beh, esistono pezzi da movimentare, ecco, quello sì. Sì, sì. Sì, direi sì. Cioè, no, esistono. Esistono, sì. Hanno anche bisogno della promozione da singolo. Beh, c'era un video, dicevi, su questo. Sì, è stato fatto un videoclip che è andato molto bene, perché in Italia è stato passato... In televisione più volte. Sto passando su MTV, su All Music, ora non si chiama più All Music. Che si chiama? Sì. E anche su lo stanno ancora passando. E poi ha partecipato anche a dei festival internazionali di cortometraggi. Quindi Chicago, New York. Video che, sì. Il regista di chi era? Il regista è Joost Luyma, che è un disegnatore di fumetti olandese, che è il disegnatore di una pubblicità in famosa in televisione, divertente, sono clip da 10 secondi di una caramella, dove, non so se vi ricordate, ci sono vari sketch in cui dice solo una frase, una battuta, ad esempio, sono finte. Ah, ho capito, per fare il nome della caramella. Sì, chiaramente, sì. E niente, il produttore del video, un ragazzo che si occupa di queste cose, noi non c'entriamo nulla, diciamo, da questo punto di vista, non, di queste cose. Una piccola avere qualche casa idea, di produzione italiana, con tanta voglia di fare e di crescere. Si chiama Independiente, sta lavorando molto bene su diversi ambiti pubblicitari, e niente, contattato da loro, e a lui ha fatto il lavoro. Bene, cosa molto positiva, direi. Visto che ci siamo, ricordiamo anche la casa discografica, l'incisione vostra. Sì, la Furica Records. Con le scimmie aspirate di come facciamo la Furia, noi. La Furia Records. Furia. E, salutiamo, insomma, se ci stanno ascoltando. Certo, via internet sicuramente. I tre capi sono Nicola e Andrea Marchi. Andrea. E, niente, tra l'altro hanno appunto... cioè, sarà l'etichetta con la quale faremo uscire anche le nostri futuri lavori a cui stiamo lavorando ora. Chi lo sa. E con la quale è uscito anche appunto questo EP acustico in free download. Benissimo. Okay. No, sta lavorando molto bene. Aveva iniziato tra virgolette con noi, ora siamo diventati una famiglia un po' più larga, ha preso diversi gruppi, ha allargato gli orizzonti. Sì, ha iniziato, diciamo, a giovane come etichetta. E come mai ha puntato subito su di voi? Chi lo sa? Non lo so. Ce lo domandiamo anche noi. Intuito. È stato un intuito. Oppure il più grande errore della loro vita. No. Ma il momento in cui la musica non ti dà da mangiare. Avevano sentito qualcosa dalle vostre... Sempre su MySpace praticamente. E poi sono venuti a vederci dal vivo in un concerto che abbiamo fatto a Firenze, e gli siamo piaciuti molto, è stata una bella serata, e di lì i primi contatti. Ottimo, la dimensione live è importante per voi, no? Eh sì. Fondamentale o no? Beh, direi necessaria, fondamentale. Penso che per ogni gruppo... Sì, è una cosa imprescindibile, ecco. Anche perché soprattutto oggi, dove la musica stampata su supporto fisico sta sempre più soccombendo. Sì, sta diminuendo, sta scomparendo. È perché se ci sono gruppi che regalano free download, esatto, invece di stampare dischi. È vero questo, è verissimo. È importantissimo, insomma... vivere anche tramite concerti, cioè alla fine il gruppo, insomma, dimostra la sua esistenza, certo, soprattutto oltre che all'uscita discografica, ma con i concerti. Beh, giustamente dicono che i dischi si vendono solamente o esclusivamente nei concerti, sono quasi sempre così. No, chiaramente ci sono le vendite, però nei concerti c'è un bel motivo per prendere un disco. Beh, direi oggi più che mai, sì. Decisamente. Ottimo, 22:55, io proporrei, se siete in forma, sicuramente siete in forma, prima del giochetto facciamo un altro pezzo acustico, qui chitarra, voce, armonica e come si chiamano? Shaker, esatto, perché il nostro batterista Ovetti. Il nostro batterista deve partecipare anche lui, è fondamentale. Cosa suoniamo adesso? Il prossimo pezzo si chiama Baby G. È un pezzo che suoniamo in versione elettrica nelle nostre scalette live, nei nostri concerti. Lisergica, elettrica lisergica proprio. Lisergica magari. Magari no, però insomma. Un po' esagerato, però qualche spunto, qualche un po' spunto psichedelico c'era, ecco. Diciamo. Ok. Almost not the hours I have been waiting, almost nothing new after the morning. But do have the spec, I do my best, I'm chasing my shoe, dreaming of my baby tree. You keep me waiting here for you and all your tears, like a star that doesn't know if its sun will shine alone. Hey, you are fearful and beautiful, aiming to the future is to be written. Laying on my shoulder you find some rest. Today is the day people will know baby G. You kept me waiting here for you and all your tears, like a star that doesn't know if its sun will rise alone. Almost 20 hours I have been waiting, almost nothing new after the morning. But do have the respect, I'll do my best, I'm chasing my shoe, dreaming of my baby G. You keep me waiting here for you and all your tears, like a star that doesn't know if the sun will shine alone. Sono le 22 e 59 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, è giunto il momento. Sono le 22:59. Facciamo il giochetto delle 23. Il giochetto è molto semplice: i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Ah. A vostro piacimento. Così non è sorpresa. L'isola dei famosi, ma è l'isola di Rock Wave. La Simona Ventura non c'entra assolutamente. Bisogna mettere d'accordo quattro teste. Sì, purtroppo quattro teste. Una regola fondamentale del giochetto: non si può copiare. Ah, ognuno deve dire. Allora comincio 5. Io. Ok, cominci te. Vai. Eccoci. Non dovevo dire. Allora. Direi Revolver dei Beatles, chiaramente. Dei Beatles al primo posto. Abbiamo parlato di Liverpool. Sì, poi Harvest di Neil Young. Come mai questo Neil Young bellissimo, proprio acustico o presunto tale? è perché è un album bellissimo, cioè era secondo me proprio in un momento splendido, certo, dove aveva soprattutto tante cose da dire, era appena uscito da un'esperienza in una band e si vede che aveva tante cose da dire e le ha dette in un modo fantastico. Poi con i Crazy Horse le ha dette ancora più forte. Sì, sì, poi però... sì, apprezzo okay. tutto Neil Young, quell'album. Certo, però, quindi Harvest, spero, sì. Meraviglioso. Harvest. Ecco, ecco, ecco, è arrivato, è arrivato. È arrivato. Southern Man. Pezzo favoloso. Sì, bellissimo. Allora, ho detto Revolver. Hai detto Harvest. Ti dico qualcosa di moderno, faccio quello che vuoi. Direi Sky Blue Sky degli Wilco. Ah, ottimo. Come mai Wilco, grande band? Perché appunto, partendo da Neil Young, secondo me sono gli eredi della tradizione americana. Certo. Cioè, ora Neil Young è canadese, però certo. fa parte di quel filone musicale lì di cantautori americani della West Coast, così. Ecco, hai preso anche i Wilco. No, non so, il Wilco con la K, però. Ah. Wilco con la K. Wilco con la K. Ok, non importa. No, voglio, a proposito, sì, hai detto la cosa giusta, lui è canadese, ma quando era passato il famoso ponte, è arrivato negli Stati Uniti, non era più canadese. Esatto. Sì. Quello era importante, è diventato statunitense a tutti gli effetti, quindi americano a tutti gli effetti, americano, statunitense. Quindi Wilco, che sono tutti i figli di Neil Young, e non solo Wilco, tutte le band che si sono sviluppate adesso di Wilco, poi direi un altro album moderno dei Radiohead. Quale? Ce ne sono tanti. Sì, sta rubando. Sta rubando. È il nostro batterista, il nostro percussionista. Io rubo i suoi. Ok, va bene. Va bene. Allora te ne dirò uno che non ti metta in difficoltà. Diciamo Hail to the Thief. Bravo, benissimo, questo è un pezzo meraviglioso che ha scelto il nostro regista, ottimo. Esatto, e poi l'ultimo, diciamo, Meet is Murder, degli Smith. Ah, grandi gli Smith. Sì, degli Smith. Certo, bellissimo. Facciamo un piccolo saluto, un secondo. Salutiamo Gianluca Merlin di Radio RCS. Ciao Gianluca. Ciao, ciao Gianluca. Ciao. Grazie per averci sopportato. Ci ha ospitato nella sua trasmissione. Bellissimo. È stato sì, un momento molto bello, interessante. Sì, piacevole. Beh, tocca a te. Ma e se ci mettiamo d'accordo e facciamo 10 dischi in totale? Non è proprio perché così. Perché t'ha preso tutte sì, le... Sì. E beh, negli anni mica solo fatto Harvest, no? Ma io volevo dire quello. No, scherzi. No, allora... Allora so quale album dirai di negli anni. Cosa dirò? Direi Tonight's the Night. Tonight's the Night. Perfetto, ok. Un altro bel disco. Che quello. Il problema è che ci conosciamo e quindi ci piacciono bene o male le stesse cose. No, Neil Young sicuramente, se dovessi portarmi in un'isola deserta la musica, ci sarebbero Neil Young, i Beatles, Beatles. Radiohead probabilmente. Beatles, non ho capito il testo. Beatles, penso Sgt. Pepper di Radiohead. Ah, Sgt. Pepper di Beatles, di Radiohead. Sgt. Pepper, se lui porta Revolver, posso portare qualcosa del primo periodo, quello certo, un po' più beat. Certo. E poi qualcosa naturalmente di moderno, sono se li casca lì. Per persone che hanno i gusti come i nostri, sono Radiohead o Blur o Oasis. Oasis o anche cose, personalmente ho anche gusti più Dimmi. Elettronici, certo. diciamo, ma difficilmente forse con 5 album mi porterei un CD dei Chemical Brothers. Perché no? Può ma capitare. Perché ballare in 5 può essere è un po' triste. Triste e difficile anche. E poi? Quindi basta. Blur, probabilmente Park Life. Certo. Che bello. Questi sono... Ha preso gli Oasis, bellissimo. Io tra Blur e Oasis preferisco Blur, diciamo. C'è sempre stato, cioè, Beatles, Rolling Stone, Blur e Oasis. C'è sempre stata questa voluta più che altro giornalistica, questa divisione. Questa. Dopo, chiaramente, va bene che i fratelli Gallagher, sai? No, probabilmente forse porterei un album dei. Si sta parlando sempre di musica straniera, diciamo, tra di noi così. Forse un album dei Kinks. Bello, bello. Qualsiasi... Grande Ray Davies è sempre stato un grande. Sì, perché. È inglese al 100% sì. quello che canta, certo. Parla esclusivamente della sua vita, ma stranamente io nella mia camera a Firenze sento certi testi e mi ci ritrovo. Non so se sia fanatismo, ma non credo perché non sono stato fanatico. Poi sono qui sono i Blur. Esattamente, ottimi. Tocca a te adesso. Allora. Io porterò, via. Porterò. Amnesiac. Dei Radiohead. Che ok, computer l'ha detto. Lui ha detto ok, computer. Ho capito. Oh, lui si è preso il The Riff. Poi White Album, così sono due. Perfetto. Sono due. Sono due. Furbacchione. Furbo. Poi Pet Sound, così per rubarlo a te. The Beach Boys. Pet Sounds per rubarlo a te. E poi l'ultimo, qual era? Non lo so. Ah, The Blair. E che porta The Blair? Preso Park Life. Gli Oasis sono niente. Mi piace più Blair anche a me. Modern Life. Tocca a te adesso. A questo punto non portato niente perché l'ho fregato tutto. Stavo portato tutto. No, ma se sta scherzando. Sì, davvero. Non esistono solo 15 dischi italiano o cantante italiano o cantautore italiano. Come mai questa scelta assolutamente straniera? No, li stava portando tutti a Andrea. No. Perché no, direi dimmi. Perché ci hai chiesto di sceglierne 5. Sì, ah, ho capito. Sì, infatti. Cioè non è che qualche buco italiano c'è, certo, da scegliere qualcosa. Non abbiamo insomma niente in contrario a un certo tipo di musica italiana, sì, probabilmente a un certo tipo di, a un altro tipo di musica italiana no, insomma. Abbiamo anche tanti dischi di cantautori, di gente che ha fatto la storia anche in Italia, insomma. Certo, bellissimo. Paolo Conte, sì. Ok, 23.07. Quindi abbiamo... l'ha detti. Dimmi. Ha detto solamente uno, non ha detto nessuno. Okay. Highway 61 di Babbina. Ecco, Dylan non ha citato nessuno. Sì. Perché per me è un caposaldo. Dylan ha fatto delle cose incredibili. Ha tracciato tante vie. Solito discorso. Poi Dylan. Beh, detto Underground per me. Anche quello è importante. Il primo. Il terzo. Sì, mi piace più. Piace più il terzo, quindi. Sì. John Cale e Lou Reed che non davano mai d'accordo. Il terzo se ne è andato via, però John Cale mi pare. Sì, il terzo è molto più Lou Reed. Assolutamente Lou Reed. Sì. Ma come mai Lou Reed, così questo musicista straordinario che ha saputo fare di tutto praticamente, ha creato determinati generi, anche se dobbiamo dire che Andy Warhol ha dato l'impronta all'inizio, poi chiaramente lui ha fatto il resto. Sì, no, una delle cose secondo me più incredibili, affascinanti del personaggio Lou Reed è che può scrivere nello stesso album Sunday Morning. Vedi cosa? Bellissimo, questo è un pezzo bellissimo. Sunday Morning oppure Heroin nello stesso album. Certo. Insomma, Sunday Morning è una canzone che potrebbe cantare anche un bambino perché è una filastrocca. Ottimo, non è da tutti riuscire nello stesso disco a scrivere due cose così diverse e così belle allo stesso tempo. Sono d'accordo con te. Poi ha scritto anche questo grazie alla produzione di David Bowie, che l'ha rilanciato dopo un momento di oblio. Deve sempre ringraziarlo, perché senza di lui è come Iggy Pop, è stato rilanciato sempre da Bowie. Bisogna dirle ste robe. Potremmo mettere anche un disco di David Bowie. Anche Think Stadio, bellissimo, incredibilmente bello. Tutti i sensi, insomma, meraviglioso. Dopo fa tante cose, Bowie. Troppa musica, siamo nel 2010, comincia a essere tanta la musica. Adesso farà un disco fra poco, dopo tanti anni ne farà uno di nuovo, non so, vediamo. Ah. Ok, 23.09, non so, in scaletta penso che ci sia un pezzo dall'album, dell'EP, esattamente. Sì. Ti ricordi che pezzo era? Speak to Me. Perfetto, adesso lo sentiamo e poi ne parliamo un secondo. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. I Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, questo finale con questo organo è bello, veramente bello, dà un certo senso psichedelico, c'è qualcosa, esiste, io l'ho sentito così, non so se siete d'accordo. Ma sì, qualcosa è psichedelico. È perché è bello secondo me, la psichedelia è fondamentale, sì, su certe cose, su certi sviluppi. Perché l'avete sviluppato in questa maniera questo pezzo, ripetiamo, in anteprima assoluta, è appena uscito, quindi siamo onorati di aver per la prima volta fatto sentire qua da noi. Ma penso che sia stato abbastanza naturale come processo di arrangiamento, perché credo che queste tastiere, questi suoni abbiano seguito un po' l'andamento del pezzo, che è un po' onirico, un po', non è un pezzo... È un po' onirico, hai detto una cosa giusta. Sì, penso sia un pezzo particolare nostro, non è ritrovabile secondo me in altre canzoni, sia acustiche ma anche elettriche, delle atmosfere così, quindi abbiamo semplicemente seguito quello che ci comunicava la canzone, la melodia, il testo, a questa atmosfera un po'... Sì, soprattutto avevamo la libertà di poter perdere tempo, tra virgolette, nel provare suoni di tastiera, perché eravamo a casa senza nessuna pressione e abbiamo registrato diversi suoni e poi sono stati stratificati e abbiamo effettuato questi suoni, è venuto questa atmosfera onirica che si adatta alla canzone. Non è stata una scelta a priori, facciamo così, la canzone è direzionata, cioè l'atmosfera era direzionata su qualcosa di onirico, però poi abbiamo esplorato un po' il pezzo. E poi in fase di mixaggio a Brescia, quando abbiamo portato tutte il nostro archivio di registrazioni, abbiamo deciso cosa tenere e cosa no. È stato bello per questo, perché abbiamo suonato tanto in giro e nel periodo, nei ritagli di tempo, perché lavorare? Mettiamoci a suonare. Giusto. Vuol dire tanto suonare in giro, cioè ci si fa, se mi è consentito il termine, le ossa o sbaglio? A suonare in giro. Sì, sì, si cresce assolutamente. Ci si fanno le ossa oppure ci si rompono? Ci si rompono esattamente. Comunque volevo ringraziare anche Stefano Moretti e Pierluigi Ballarin del Tube Studio di Brescia, perché insomma, hanno lavorato con noi al mixaggio di queste canzoni che sono presenti nell'EP. Dove possiamo trovare, avevi detto prima, per dello... Sì. Da oggi è in esclusiva per una settimana su Rockit, insomma questo portale di musica italiana che molti insomma conosceranno. Rockit.it. Esatto, e potete insomma trovarlo e scaricarlo da lì. Per una settimana, poi dopo una settimana si potrà trovare anche su altri canali. Comunque insomma potete trovare delle indicazioni anche sulla nostra pagina di Facebook. Avete anche un sito oltre la pagina di Facebook? Sì, thevickers.eu. Ah, e lì ci sono i link per andare su MySpace o Facebook. Insomma. Benissimo, vi ricordate se avete qualche altra data da presunta, possibile o da fare? Le prossime date abbiamo una data il 12 giugno, quella più vicina, che è a Sabbioneta, Sabbio Rock Fest, un festival che fanno a Sabbioneta, questa è la più vicina. Perfetto, e poi altre? Poi si spera altre, speriamo di aggiungerne. Non troppo, perché dovremo tornare a registrare a fine agosto. Ora stiamo registrando il singolo che presuppone l'album, insomma, certamente siamo ancora qui. Singolo che, per ribadire la nostra schizofrenia, verrà stampato in vinile dopo un free release in download gratuito su internet, un vinile. E la copertina chi la farà dal vinile? Non avete ancora l'idea? L'idea sì, ma ci sono varie possibilità. Possibilità, sì. Benissimo. Dobbiamo vagliare. Adesso abbiamo la possibilità effettiva di suonare, cosa dite? Perfetto, facciamo Time Out. Perfetto. Che è un altro pezzo molto elettrico della scaletta. Ottimo, ottimo. Sorry, but I expected more. 20 ears, and I'd like to know why nothing is rubbish like my job. Where did my big ambitions go? I begin to lose control. She doesn't know how I feel, and you know why you're lonely. There's one place to go when your face is turning to the wall. I need a timeout. You didn't give me what I want. You need a timeout. I didn't give you what I want. Hit me, knock me on the ground. Let me sleep, don't take me around. Please don't ask me things I can't get. Don't throw away my cigarettes. I need a timeout. You didn't give me what I want. You need a timeout. I didn't give you what I want. You didn't give me what I want. You need a timeout. I didn't give you what I want. Blu Radio. Le tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'ocarina, è giusto, bellissima. È il casù, una cosa. Sì, ma perché abbiamo un'armonica in re. Oh, ecco, siamo, sì. Ah, siamo in linea. Sì, siamo, dimmi. No, che non usiamo mai il casù. Però ci siamo dimenticati l'armonica in re. E quindi questa canzone era l'armonica, ce la siamo dimenticata a Firenze e quindi abbiamo preso un casù che era qui nello zaino. Avete aggiustato così praticamente. Sì, è una canzone molto diversa dal vivo, da come facciamo di solito dal vivo. È uno dei pezzi più tirati, più duri, diciamo. Succede sempre qualcosa di strano, cascano pezzi di batteria. No, non sto scherzando, è vero. Di solito chiude i nostri set elettrici, è l'ultimo pezzo. Spacchi la batteria, alla Kate Moon. No? Diciamo che siamo, magari. Siamo talmente arrabbiati. Un approccio alla Who, sì. Sì, e quindi mi ridevamo perché farla così è un po' totalmente diversa da come l'abbiamo fatta 10 giorni fa. A proposito di canzone, avete detto una frase interessante. Leggo da un'intervista. Kate Richard, per esempio, intervistato sulla questione, affermò che una canzone è quasi come un regalo che ti arriva da chissà dove. È sì, così? Io sono d'accordissimo, sì. Anzi, penso di aver citato questa frase di Kate Richard un sacco di volte. Sì. Poi Kate Richard ha sempre ragione. No, è vero, cioè, è vero, perché molte volte è davvero inaspettato come cosa, perché magari stai strimpellando qualche accordo e non hai assolutamente idea di, insomma, che da lì a poco possa venirti fuori uno spunto melodico, un 3-4 note che vicine cominciano a formare una melodia. Sono cose inaspettate. Secondo me la definizione di regalo è azzeccatissima, perché insomma è difficile sedersi a una scrivania e dire va bene, scrivo una canzone. E come la chiappi, vengono sempre fuori come le cose peggiori. Cioè, e come la chiappi perché non sfuga la canzone? Beh, insomma, devi fissarla un po'. Non è facile nemmeno cogliere il momento giusto. A volte ci sono anche delle melodie che ti vengono in testa, ma non sei nel posto giusto al momento giusto, quindi non è semplice. Io ti cito un episodio di Eugenio Finardi, che me lo diceva quando l'abbiamo intervistato tempo fa. Lui ama spesso e volentieri andare via in treno, in macchina forse, doveva andare a Roma, eccetera, per una registrazione, e aveva in mente un motivo, era in treno, ha cominciato a fischiettare questo motivo, aveva un block notice e via, quelli erano in scompartimento con lui, ma cosa fa? No, faceva la canzone, non doveva perderla, cominciava a fischiettarla, a scrivere nel block notice, chiaramente dopo aveva fatto il pezzo. Questo era, Finardi la vedeva così, voi la vedete in un'altra maniera, è giusto che sia così. No, è così, cioè, diciamo, capisco come mai preferisce il treno alla macchina, perché macchina è un buon posto per ascoltare musica, ma un pessimo posto per farsi venire idee. Certo. Nel senso che se sei la notte e guidi da solo probabilmente non succederà niente, ma in mezzo al traffico se ti distrai può essere un problema. È pericolosissimo. E quindi, quando pensi alla musica è facile distrarsi, ma certo. Totalmente. Quindi si ascolta molto bene musica in macchina, ma in treno forse si pensa meglio in maniera più creativa, ecco, perché stai lì a sedere, hai tempo da perdere, quindi. Quindi le idee partono, si sviluppano, o le sviluppa lui o le sviluppi te, le sviluppa il batterista, perché no, giustamente anche te c'hai un ruolo importante nella band, puoi sviluppare certe tematiche ritmiche. Sì, no, certo, poi... Per quel che posso. Ti faccio parlare, parli poco. Ti vorrebbe un bastone di legno appuntito per pungolarlo. Dimmi. No, nel senso, cioè, vabbè, faccio le mie parti, logicamente, poi cioè, per quel che posso do una mano anche per il resto, insomma. Cioè, non so suonare altri strumenti a parte la batteria, però qualche idea mi viene anche a me. La batteria per il tipo di musica che si fa, insomma, non è vero, cioè alla fine è sempre una delle cose più importanti, se può rovinare un pezzo come risolverlo. Certo, sono d'accordo con te. Come le percussioni che si possono sentire anche nelle più acustiche sono, in alcuni punti sono fondamentali, anzi sono molto più difficili da aggiungere e da mettere rispetto a una batteria magari. Insomma, ci vuole l'intervento giusto al posto giusto, insomma. Avete dato piena autonomia a lui praticamente. Ma sì, insomma. Diciamo che sì. Insomma. Ecco, forse è la cosa che fa cose che ci piacciono, che ci distingue, cioè per un ascoltatore, che è il primo distinguo che fa tra musica italiana e musica inglese, la parte della sezione ritmica. Diciamo che è molto difficile saper suonare musica, tra virgolette, anglosassone, molto più, diciamo, inglese rispetto all'America. È molto più difficile suonare musica inglese se hai un background italiano, perché è molto difficile sentire batterie che non vadano al di là di cose semplici o standard nella musica italiana, a parte cose particolari, insomma, ma parlo di mainstream. Sì, ho capito. È molto difficile, si rimane sempre lì, ma da 50 anni, insomma. Ma Liverpool non avete avuto nessun problema, però, quando siete saliti sul palco del Cavern? Ma tutto al doppio della velocità. Ah, ho capito. Cioè, cosa intendi? Al doppio del volume. Esatto. Sì. Volume spaventoso. Volume spaventoso all'interno del Cavern, sì. Nonostante tutto. Penso di averlo sentito raramente in un locale in Italia, ma forse mai. Quel fonico con il pollice alzato. Ah, okay. Non è alto. Ok. è un'altra dimensione. Un altro mondo. Anche in altri posti dove avete suonato, le altre due date che avete fatto in Inghilterra, oltre al Cavern, sempre a volumi spaventosi? No, simile. Ma come mai secondo voi così un volume perché così il rock alto? Va suonato a volume alto? No, perché c'è un pubblico al quale non dà fastidio. Ah, ho capito. In Italia probabilmente invece sopra un certo volume dà fastidio. No, ci sono i vicini che ti mandano. Esatto. Ma si chiude prima però, alle 23, non alle mezzanotte. Infatti, cominciano prima, tipo anche di pomeriggio, ci sono concerti anche alle 3 di pomeriggio. Però chiudono prima, se è un altro stile di vita. Certo, lui non ha spaccato la batteria visto che il volume era altissimo. No, non era mia. Poi ah, non era tu. Non era tu. Capito. Bella, è stata un'ottima esperienza in ogni caso, positiva al 100%. Sì, assolutamente. Da ripetere secondo sì, voi? Speriamo sì, di ritornare sì, presto. Ma se, sempre nei nostri programmi riuscire a tornare insomma, all'estero a suonare. Penso che per un gruppo italiano che canta in lingua inglese fa una musica comunque anglosassone. Esattamente. Sia fondamentale riuscire a farsi un nome, una posizione qui musicalmente per quanto può e per quanto gli è concesso e poi uscire all'estero perché canti in una lingua che è la lingua più internazionale, la lingua del mondo alla fine l'inglese. Quindi hai tutto il diritto di cercare le possibilità per farti conoscere, apprezzare anche fuori dall'Italia. Potevamo cantare in spagnolo allora. Anche lo spagnolo, spagnolo ha un sacco di potenza. Sì. Allora, infatti la musica latina certo. È straconosciuta. Chiaramente. Sì. Quindi il giornalista ha visto giusto, c'è poco da fare. Sì, no, sì. Sì secondo me sì. Sicuramente giustissimo. Ha visto giusto e poi il discorso è che voi avevate già una predisposizione alla musica anglosassone, quindi le difficoltà sono state minori o sbaglio? O c'è stato un patto, no. C'è stata emozione? Quando ma diciamo un po' sì, l'emozione, sì. Dimmi. Mi ha tirato una pacca sulla spalla fortissima perché stava parlando, allora ora parla lui. Dimmi. No, fortissimo. Ho offeso. No, dicevo che sì, più che altro temevamo l'impatto con il pubblico straniero perché era la prima volta la quale ci confrontavamo con un'altra realtà e invece cioè, appena abbiamo visto che reagiva bene poi è stato tutto in discesa. Invece ora temiamo molto più l'impatto del pubblico italiano. Come mai questo? Beh, avete suonato parecchie volte in Italia, non ci sono problemi di questo genere. Vabbè, è un'affermazione un po' esagerata, però nel senso dipende molto dalle zone. Non sempre c'è un pubblico rock and roll sì, ecco. Manca un po' il rock in Italia magari molto spesso è un pubblico da insomma braccia incrociate da critico e quindi insomma non è una cosa che si sposa bene con la batteria a proposito di questo adesso facciamo sentire un pezzo e poi vi faccio una domanda che ho fatto a molte altre band. La difficoltà di suonare pezzi vostri dal vivo, ma ne parliamo più tardi. Sentiamo un altro pezzo dall'EP acustico, mi pare, o sbaglio? Sì. Ok, benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Black, but I'm not sure the good reason to be sad. I'm wasting time, I'm doing fine. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 23:33 e 15 secondi, stasera abbiamo in compagnia dei Wickers che cantano, suonano e ci parlano dell'EP acustico appena uscito e del disco precedente uscito da qualche mese prima, o no, circa, sì, sì. Circa, benissimo. E la domanda che vi volevo fare è questa, il discorso dei concerti. Voi avete, chiaramente grazie a un'agenzia, avete dei concerti mirati e suonate le cose vostre, ma all'inizio non era proprio così, o no? È un po' diverso, cioè molti chiedevano le cover di Vasco e di Liga, poi adesso Liga è uscito l'album qualche giorno fa e via. No, noi anche all'inizio, quando abbiamo iniziato, ancora non eravamo, diciamo, il gruppo che siamo ora a livello proprio di pezzi, anche di scelte musicali, così facevamo cover come altri gruppi per suonare. Di cosa? Di Vasco e di Liga, anche voi? No, assolutamente. Assolutamente no. Dagli Steppenwolf ai Cream o Neil Young. Incredibile. Così la gente diceva: chi è questo? Come mai Steppenwolf? Roba la più gettonata, Born to be Wild, sì, appunto, oppure però. The Pusher, cioè queste le più conosciute comunque, però sempre meno conosciute di tante altre cose. Sì, è la cosa più folle, fare un gruppo cover di canzoni che conoscono in pochi. Esatto. È la cosa più folle che un gruppo possa fare. E poi nulla, piano piano, quando il gruppo ha preso forma e piano piano abbiamo fatto pezzi nostri, abbiamo diviso la scaletta in metà pezzi propri e metà cover, come penso facciano anche tantissimi, sì, gruppi. Esattamente. Che è una cosa da abbandonare abbastanza presto, perché così non fai bene le cover. Noi non siamo mai stati degli ottimi propositori di cover, diciamo, perché le rifacciamo a modo nostro e molte volte invece la persona vuol sentire la cover rifatta a modo, giustamente anche. E quindi i pezzi tuoi non ci investi più di tanto tempo, comunque sono quelli che ti danno più soddisfazione, e poi piano piano, insomma, abbandoni tutto e fai solo pezzi propri. E facevamo delle serate a Firenze insieme a altri gruppi, così che da dividere l'onere della gente, come di cui si parlava prima, da portare, e l'onore appunto di suonare solamente pezzi propri. Da lì poi, questo erano gli inizi, poi abbiamo abbandonato solo pezzi vostri e poi solo pezzi nostri, via via. Poi un po' la fortuna ti proponi, insomma, nel circuito che vuole solo pezzi propri. Però così è in Italia, cioè, nel senso, poi non so come funzioni all'estero, non lo so, ci sono gruppi cover anche all'estero, certo. Mi sembra molto meno che qui ci sono agenzie che propongono gruppi. Sì. Gruppi, gente, conosco un gruppo io che fa 365 date, no, all'anno, però 300 date, 310 date l'anno, facendo solo esclusivamente pezzi di Vasco Rossi, quindi, insomma, oh. Ma veramente tutto esaurito sempre, non c'è mica problemi di trovare le date. Per tutto l'anno lui, tutte le stagioni, trova posti da suonare. Sì, questo è preoccupante. Lo so. No, ma io mi diverto, io ho un amico che fa questo. Beh, che c'è un pubblico disposto anche a pagare per vedere, d'accordo, ma ci sono dei professionisti veri e propri, la copia di un'altra persona magari non è disposto per pagare dei gruppi nuovi. Sono d'accordo con te, interessanti. Però il discorso è questo, cioè tu che fai 365 volte all'anno Alba Chiara non sei un po' stanco di farlo? Hai soldi, sì, se è un lavoro siamo d'accordo, però è pesante. 300, se uno è un musicista di grande livello non può sprecare, si deve mangiare, sono d'accordo con te, vengono pagati eccetera, 365 volte fai, no, Alba Chiara soprattutto una cosa non tua, però penso con molto rispetto che sia passione anche, sì, in quel, certo, genere, sono uno d'accordo. Che non vuole investirci totalmente la vita, vuole investirci gran parte della propria vita, ha la passione per un certo musicista qualunque esso sia e fa questo. Il problema non è, secondo me, dei gruppi cover specializzati, il problema è che ci sono, per due gruppi cover di Vasco in Italia magari ce ne sono altri 50 che fanno letteralmente schifo. Quindi se ci fossero solo i due bravi, a questo andrebbe punto hai bene. Due gruppi cover e non hai il resto intasato. Invece anche il resto dei gruppi prendono belle cifre rispetto a gruppi come che fanno musica propria e comunque intasano la programmazione e abituano le persone a sentire sempre le stesse cose. Esatto. O forse, esatto. Forse non è la gente che vuole questo, non lo, certo, so. Insomma, alla fine dopo un po' smetti anche di pensarci. Chiaro. Ritornando al pezzo che avete fatto, dal disco che abbiamo sentito adesso, aveva un bel finale particolare, avete sperimentato, se mi è consentito l'espressione, perché io lo trovo positivo, perché avete sperimentato tra una traccia prevalentemente acustica. Sì, Sì, effettivamente ci sono dei suoni che abbastanza particolari. Credo che sia un po' il discorso che ho fatto anche precedentemente sull'altro pezzo, su Speak to Me. Anche qui penso che tutti siamo andati nella direzione che suggeriva la canzone. Penso sia la canzone più intima che abbiamo mai registrato. Quindi insomma non servivano cose invadenti o troppo presenti all'interno del pezzo, per cui si andava, insomma, abbiamo cercato di mettere cose tutte in punta di piedi e insomma penso ci siamo riusciti abbastanza bene. Abbiamo detto che questo EP ha particolarità per dare possibilità alla gente di sentire anche dei pezzi di questa dimensione, però musicalmente sarà un episodio o potrà avere un riflesso nel prossimo o futuribile album che farete? Ma nell'album penso che rispeccherà molto rock, molto quello che facciamo dal vivo già negli ultimi mesi. Quindi sostenuto. Questo poi non vuol dire insomma che potranno esserci uno o due pezzi acustici, questo sicuramente non lo diciamo ora, non è detto, però penso che avrà una direzione più rock, più suonata, più potente, più chitarre. Più improvvisazione oppure no, secondo te? Secondo voi? Ma più che improvvisazione, più sentimento. Ecco, ok. Sentimento improvvisato. Molte volte questa è una musica che fa differenza se viene suonata bene, con sentimento, cioè non si sta parlando, non stiamo parlando di canzoni complicatissime, complessissime, cioè stiamo parlando di pochi accordi che creano delle atmosfere, delle sensazioni, per cui anche un solo accordo però suonato con sentimento giusto fa la differenza rispetto ad altri gruppi, può farla. Certo, pochi accordi che possono essere sviluppati poi chiaramente con delle sonorità, certo. Sempre partendo dal sentimento, quindi la melodia esiste ancora, esiste la melodia, fase melodica vostra, c'è? Certo, penso che la melodia unita, come diceva prima Federico, all'importanza del ritmo, della sezione ritmica, faccia la musica anglosassone più bella e più interessante sia del passato ma anche di ora. Quello che diciamo secondo me la differenza più dalla musica italiana è il fatto che leghi queste due componenti fondamentali per la musica pop, cioè la melodia e il ritmo, cosa che magari nella musica italiana molto spesso insomma si ha una predominanza della parte melodica. Sì, esattamente. Molte volte sfocia in qualcosa anche di più barocco, più pieno rispetto a un certo tipo di musica inglese o americana, non tutto ovviamente, perché non è che sono anche produzioni americane, cioè, molto simili a produzioni italiane, dipende, sì, poi dal genere di musica, insomma. Chiaramente, sì, soprattutto quelle che vanno in classifica, diciamo, quando parliamo di questo ci riferiamo sempre a modelli, a gruppi, certo, vicini a noi. Adesso dimmi. No, stavo pensando a Frankie Sinatra. Perché a noi piace molto, però è totalmente, cioè, big band dietro e voce impostata. Di musicisti straordinari, non c'era nessun problema. Il problema non abbiamo neanche noi, perché adesso suoniamo un altro pezzo. Che pezzo volete fare adesso? Ah, suoniamo quello che abbiamo ascoltato prima, estratto dall'album The Only One. Perfettamente. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. I waited for too long to discover what kind of pain's in your eyes. You waited for too long to discover what kind of man I like to be. Yeah. yes it is. I met you at the gates Friday evening. One day you fell down on my life. Every day it got so cold, I feel it in my bones. Can you still feel something when you see the sun? See the sun. You are the only one, I don't care, no one, I can swear it now. You are the only one. You are the only one, I don't care, no one, I can swear it now. You are the only one. Every day it got so cold, I feel it in my bones. Can you still feel something when you see the sun? See the sun. See the sun. See the sun. You are the only one, I don't care, no one, I can swear it now. You are the only one. You are the only one, I don't care, no one, I can swear it now. You are the only one. Ah, ah, ah, ah. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Benissimo, il pezzo era molto bello. La versione acustica è ancora accattivante. Sì, viene sempre bene. Viene sempre bene, esattamente. Ah, siamo in diretta. Siamo in diretta. Sì. Beh, non c'è niente di male, hai detto una cosa giustissima. Sì, sì. Che viene sempre bene, mi è venuto bene anche adesso, chiaramente. Ho letto che avete partecipato oltre a dei festival internazionali, li potete anche citare se volete. Sì, parlavo prima del video, no? Del video? Chicago Reel, mi sembra... Short Film Festival. Queens Film Festival, insomma sono un festival di Chicago e un festival di New York. New York. Uno un po' più grosso, l'altro indipendente. Sono, naturalmente il video non è andato a concorrere con film di... non so, di Kubrick, ma c'erano varie categorie tra le quali quella del videoclip o animazione, e in uno si è classificato tra i primi tre. Bene. Si è tra i primi cinque, tra i primi tre, quindi insomma sono stati, per chi ha fatto l'iscrizione, cioè il producer del video, sono stati soldi ben spesi come pubblicità, e ha trovato anche contatti addirittura tramite questo video, sì, per lavori, diciamo, fuori dall'Italia, sì, che insomma siamo contenti di avergli portato fortuna e con la canzone e lui a noi con il video. E c'è la possibilità che un tentativo inglese, cioè nel senso di pubblicare l'album in Inghilterra o no? Molto probabilmente il prossimo sarà poi queste sono cose che riguardano più l'etichetta, sì, che voi. Però ci tiene aggiornati il, diciamo, per anche questo, anche Keep Clear, mi sembra. Sì. Mi sbaglio. Oh, Keep Clear, sì, dovrebbe uscire in Europa, non so in Inghilterra. Ah, non so in Inghilterra. Ah, bene, una cosa positiva, perché dopo si possono, sì, aprire delle tournée anche in Europa. Infatti, mentre il vinile, sì, mentre il vinile, insomma, di prossima uscita che stiamo finendo di registrare adesso, dovrebbe uscire in Inghilterra, anche se ancora non sappiamo i dettagli. Comunque, insomma, speriamo bene, perché comunque l'etichetta si sta muovendo all'estero anche con gli altri gruppi. C'è qualcuno che è già uscito, a seconda dei tempi. Noi ora siamo ora a registrare, quindi ne parleremo dopo. Però anche gli altri due gruppi di Fulica sono già usciti, chi in Canada, chi in Giappone, però, e chi in Germania, insomma, dipende un po', sono un po' dinamiche strane che noi a volte rinunciamo a capire, quelle della distribuzione, però insomma. Siete stati di apripista praticamente, sì, nel senso positivo. Il primo gruppo siamo stati, primo dell'etichetta. Gruppo. Sì, è stato, come avete detto voi, come mai, non si sa. Stiamo crescendo insieme tutte e due. E c'è una bella collaborazione con l'etichetta, insomma, praticamente. Sì. Non è una cosa, l'etichetta è là e voi siete qua. No, sono dei ragazzi, alla fine anche molto giovani, siamo anche amici, insomma, facciamo delle belle serate insieme. Tutto parte da Firenze, praticamente. No, loro sono di Mantova. Ah, sono di Mantova, perfetto. Loro sono di Mantova e noi di Firenze, hanno gruppi, uno di Cosenza, uno di Torino, uno di Brescia e mi dimentico... Due di Brescia e uno di Torino. Sicché, insomma, hanno unificato l'Italia. Esattamente, hanno unificato l'Italia. Da Mantova. Musicalmente parlando, è una cosa positiva in ogni caso. Adesso sono 23:50, abbiamo tempo per far sentire un altro pezzo che avete scelto dall'EP, mi pare, la traccia numero 3, mi pare, vero? Sì. Volete parlarne dopo o parliamo subito? Ma parliamone dopo, lasciamolo ascoltare. Lasciamolo ascoltare. Si intitola End of a Season. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Season, waiting for East Anglia and Kent. The snow shower starting around midnight. By dawn, there could be a few centimetres lying on the floor. Ice could be a problem as well, as temperatures will stay around about freezing through the night. There'll also be some strong winds blowing across East Anglia and Kent, not helping matters. Almost anywhere, in fact, it could turn icy. We've had some rain showers through the day and temperatures will quite widely fall down to freezing or below. Blu Radio. Le tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, allora tre cose da dire. Il fiammifero. Perché c'era un fiammifero all'inizio del pezzo? Vai. Allora, c'è un fiammifero perché il testo di questa canzone parla di, diciamo, di alcuni momenti della quotidianità, no? Anzi, parla... non so, sono momenti che credo capitino nella vita di tutti, cioè momenti nei quali stai facendo una cosa qualsiasi che fai tutti i giorni, un gesto quotidiano come appunto accendere un fornello e prepararsi un caffè, e in quel momento magari realizzi che qualcosa è cambiato nella tua vita e che niente sarà lo stesso. Il treno ha fischiato di Pirandello, praticamente. Esatto. E poi c'è la moca, anche se sente la moca. Infatti, il caffè, sì, perché appunto il protagonista di questo testo si sta facendo un caffè nel momento nel quale viene colto dalla folgorazione che appunto qualcosa è cambiato nella sua vita e che probabilmente non sarà più la stessa. E un'ultima cosa, ci sono anche le previsioni del tempo della BBC. Come mai ci sono previsioni? Perché il tempo fa parte della quotidianità. Come diceva Francesco, lui capisce che qualcosa è cambiato, sta cambiando. Diciamo che il pezzo può sembrare vagamente estivo o caldo, può essere alla fine dà più idea di calore casalingo, perché uno collega la macchina del caffè tutto quanto, e il testo delle previsioni in inglese parla che fuori è completamente tutto gelato, è Natale, non si riesce a camminare. Il testo durerà una decina di secondi sotto la canzone, quindi se uno riesce a cogliere magari può essere buffo. Comunque così è stato un po' un gioco fare questa cosa e in inglese, perché come al solito meglio avere uno speaker della BBC che Giuliacci magari. Sì, in ogni caso, internazionale. In ogni caso questo è un pezzo assolutamente inglese, chiaramente si poteva essere scritto benissimo da un artista inglese, visto che c'è previsione del tempo. Sì, però sono pezzi anche questi, un pezzo del genere, un pezzo potrebbe essere anche alla De Gregoris. Sì, anche per De Gregoris. Per certi versi è anche vero che De Gregoris si rifà spudoratamente a certe cose. Perfetto. L'ho fatto però 30-40 anni fa. Esattamente, siamo d'accordo con te. Soprattutto nei primi lavori. In Teorius Campus è nel primo, chiaramente. Non c'è modo di seguire De Gregori dal vivo cantare una canzone perché rifà Dylan. E quindi lo so, canta lo so. A modo sempre suo. Fatto Dylan. Adesso lo farà anche spesso volentieri, visto che con Dalla fa questo tour di rinodare le idee di tanti anni fa. In ogni caso De Gregori, sì, giustamente dilianiano al 100%, c'è poco da fare. 23:56, abbiamo finito. Purtroppo siamo arrivati alla conclusione di questa bella cavalcata con la musica dei Vickers. E una cosa fondamentale, ripetiamo che è uscito oggi ufficialmente un EP di 5 pezzi, lo ripetiamo, dove si può trovare, eccetera, visto che ci siete. Vai, Andrea. Vai, Andrea. Allora, l'EP si troverà per una settimana in home page sul sito del Rockit. Mi sembra l'indirizzo sia www.rockit.it. Quindi per una settimana potete scaricarlo gratuitamente da quel sito, sarà sempre gratuito, però diciamo dopo una settimana si potrà trovare anche su altri canali. Si chiama Sofa Session? Sofa Sessions, ricordiamo che all'interno, diciamo, il prodotto contiene anche un file in cui si possono leggere, insomma, tutte le informazioni che riguardano le registrazioni di questo copertina, testi e foto. Esatto. Bellissimo. E poi ricordiamo che è uscito precedentemente l'album vostro, si chiama Keep Clear, che è un album completo, 12 tracce, che disponibile nei negozi, certo. Distribuzione classica oltre a quella online, e il sito a questo punto, certo, www.thevickers.eu, con tutti i link per Facebook, MySpace. Benissimo, abbiamo finito la presentazione di questo album, abbiamo finito la presentazione vostra, ma abbiamo ancora tempo per due pezzi assolutamente dal vivo. Grazie a Michele Tosò, il nostro mitico regista, grazie a tutto lo staff. Ci sentiamo mercoledì prossimo con un altro artista. Ringraziamo tutti, anche noi, molto gentili e ospitali. Grazie a voi che siete venuti da Brescia, Firenze e Brescia, via Padova, e poi ritornate a Brescia. E adesso ci fate sentire, per concludere, per salutare i nostri ascoltatori, due pezzi live, assolutamente live. Il prossimo pezzo si chiama You Think I'm Playing, e mentre quello che faremo dopo si chiama Home. Perfetto, buonanotte a tutti. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. That's right. You think I am playing, and that's right. I'm fooling myself, I'm looking around all the nasty people that I found on you. You think I'm playing, and that's right. You think I'm playing, and you're right. You think I'm playing, that's alright. I'm fooling myself, I'm joking around in the sky while I'm thinking I have to start again. You think I am playing, and that's right. Thursday, Friday, you think I'm playing a game I don't want. Think I'm playing something wrong, and I'm fooling myself once again. I don't want to stay in my shoes. You don't want to stay in my shoes. My shoes, you don't want to stay in my shoes. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock.